Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, una trasmissione animalista, antispecista e vegan. Siamo arrivati alla puntata numero 473, nella quale parleremo di mostre, di mostri e di mostruosità. Speriamo di avervi incuriositi. Di mostre e mostri. Ebbene, dal 16 dicembre scorso fino al 31 marzo 2019, presso lo spazio MUDEC di Milano, sarà possibile ammirare una bellissima mostra di un vero mostro sacro della fotografia. Il progetto si chiama Animals e si tratta di 60 scatti dedicati agli animali del geniale fotografo statunitense Steve McCurry. Alcuni dei 60 scatti sono già famosi, altri sono meno conosciuti, tutti sono iconici e raccontano le mille storie di vita quotidiana che legano indissolubilmente l'animale all'uomo e viceversa. Un affresco corale dell'interazione, della condivisione, che tocca i temi del lavoro e del sostentamento che gli animali forniscono all'uomo, delle conseguenze dell'agire dell'uomo sulla fauna locale e globale, dell'affetto che l'uomo riversa sul suo pet, qualunque esso sia. Sentiamo il servizio curato dalla nostra impareggiabile Roberta Marino, che si è presentata alla conferenza stampa di Steve McCurry con il fotografo della nostra redazione Luca Daddi. Alcuni scatti verranno pubblicati sul nostro blog www.restiamoanimali.it e sulla nostra pagina Facebook Restiamo Animali, alla quale vi chiediamo di regalare un like. Come si inserisce il capitolo sugli animali nel tuo lavoro di fotografo? Mi sono sempre occupato degli uomini, della vita degli uomini, di come si comportano, di che cosa fanno, di che tipo di correlazioni intrattengono gli uni con gli altri. Mi sono occupato di comportamento umano, ma nell'ambito di questo mio lavoro mi sono reso conto che ci sono anche i cuccioli, ci sono anche quei cagnolini e i gattini che teniamo a casa, oppure ci sono le bestie feroci, oppure ci sono gli animali in cattività negli zoo, oppure ci sono quegli animali che vengono usati per divertimento, quegli animali per esempio che se ne vanno in giro tranquillamente a spasso come un elefante che ho incontrato a Kathmandu in India. Insomma, mi sono reso conto a un certo punto della mia vita, guardando proprio il lavoro di anni e anni passate, che molte delle mie fotografie contenevano appunto questi amici dell'uomo. Gli animali in ruoli diversi, in momenti di vita diversi, condivisi più o meno insieme all'uomo. Quindi mi è particolarmente interessato riuscire a capire che tipo di correlazione ci fosse. E una cosa che mi ha colpito proprio stamani quando stavo da solo a vedere la mostra in anteprima è stato che la maggior parte delle fotografie che ho visto sono sì fotografie di animali, ma sono fotografie di animali in situazioni di difficoltà, in situazioni di sofferenza, vuoi perché appunto c'è il volatile intrappolato nel petrolio, nel mare, oppure gli animali incatenati con un elefante che si vede. Insomma, mi è dato pensare che molto spesso la vita degli animali è una vita fatta di lotta contro il dolore, contro la sofferenza, e poi ero lì seduto e mi sono detto, ma infine anche noi esseri umani nella nostra vita dobbiamo lottare molto spesso contro il dolore, contro la sofferenza, e questo tipo di analogia mi ha particolarmente interessato. You know, our lives are full of pain and suffering and struggle. So, this kind of... Rispetto alla fotografia della ragazza con i due topi, ci racconti qualcosa? Well, I was doing an assignment for Time Magazine, I don't know. Stavo appunto compiendo un lavoro che mi era stato commissionato da Time Magazine, era molti anni fa, e mi era stato richiesto di descrivere una parte del viaggio che si fa in treno da Kerala a Chennai. E io avevo deciso non solo di riprendere le fotografie che si vedevano dal treno, ma volevo anche riprendere le persone e i luoghi lungo l'itinerario di questo treno. Questa ragazza fa parte di una comunità, diciamo, definiamola di zingari, che abita vicino a una delle stazioni che io ho ritratto. Di fatto sembra che la ragazza abbia un topo solo addosso, ma ne ha due, e la cosa mi ha particolarmente divertito perché uno è stato un incontro del tutto casuale, due perché questa ragazza trattava questi due topi come se fossero i suoi animaletti da compagnia, e ho trovato appunto abbastanza strana la storia, soprattutto se paragonato a quello che noi pensiamo siano i nostri animali da compagnia. Quindi non solo mi ha colpito la stranezza, ma anche la sorpresa della situazione, la diversità rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Quindi non è che ci sia una storia, una ragione specifica, semplicemente è capitato che io la vedessi e la vedessi così. Ci sono poi immagini che raccontano di rapporti tra esseri umani e animali inconsueti, come quella dell'elefante con il ragazzo che legge. In realtà la foto non è un momento di coccola come sembra, vero? So this was a elephant camp where you can see the elephants in the background as kind of a... Era un campo di elefanti e li possiamo ben vedere sullo sfondo, ma lui, questo giovane uomo, era un malupa, cioè questo era un addestratore, un addetto appunto agli elefanti. È stato un momento, devo dire, il poter riprendere, anche abbastanza fortunato il poter riprendere questo tipo di scena, perché l'elefante improvvisamente si è diretto verso il ragazzo che leggeva e probabilmente voleva semplicemente grattarsi il dorso, e quello che noi vediamo è una fotografia di estrema vicinanza tra l'uno e l'altro dei due soggetti. Quasi l'elefante sembra che sbirci dietro le spalle del giovane uomo e voglia leggergli da dietro le spalle ciò che lui sta leggendo. Di fatto questo è uno di quei fuggevoli momenti che devi essere fortunato per riuscire a riprendere, e questo è anche parte del motivo per cui io penso che sia una grande cosa riuscire a fotografare delle scene come queste ed essere così fortunati da riuscire a riprendere una cosa che poi diventa significativa. Cosa pensi del lavoro di John Emmer Carton, We Animals? Yeah, I'm not sure that's my kind of, I think it's important, I think it sounds like an important. Beh, non sono sicuro che questo sia, diciamo, nelle mie note, nel mio modo di lavorare. Spesso, certo, sono d'accordo, noi preferiamo non vedere o non sapere che succedono certe cose nel mondo. Io credo sia assolutamente importante occuparsi di qualsiasi sfaccettatura che abbia a che fare con le attività umane. Diciamo che però per me il mio atteggiamento nei confronti della vita, il modo in cui io vivo dentro il mondo, è un modo che decisamente ha sempre avuto il massimo rispetto nei confronti del prossimo, dell'alterità, di qualsiasi cosa sia altro. Però ecco, rispettando il lavoro di MacArthur, non credo sia proprio ciò di cui io possa occuparmi altrettanto profondamente. Thing I've ever done. dedicata al fotografo McCurry, la ricetta di oggi, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, all'interno del suo spazio etico gastronomico, il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Che fatima amore tutte e due, non ha già avuto un ritratto. La ricetta di oggi celebra un grande artista dello scatto, il fotografo Steve McCurry, che recentemente ha presentato una nuova mostra dal titolo Animals, ancora visitabile a Milano. All'inaugurazione era presente anche la redazione di Restiamo Animali, per la gioia dell'autore di tutte le foto dei miei piatti. A Steve McCurry, divenuto celebre soprattutto per i suoi reportage in territori di guerra, dedico una ricetta di un paese a lui caro, l'Afghanistan. Ecco gli ingredienti per 4 persone per la Bonjat Salad: 3 melanzane, 100 g di farina di riso, una manciata di foglie di menta fresca o essiccata, 750 g di passata di pomodoro, un cucchiaino di cannella in polvere, un cucchiaino di pepe nero, un peperoncino, olio di semi di arachidi per friggere, olio extravergine di oliva e sale grosso. Io metto a fuoco e tac, tu sei venuto già. Fatte fotografa. Tagliate le melanzane a cubetti di circa 1 cm per lato. Quindi sistematele in un colapasta e mescolatele con un cucchiaio di sale grosso e lasciate riposare un'oretta affinché perdano il loro liquido di vegetazione. A questo punto sciacquatele abbondantemente e asciugatele con un panno. Passatele nella farina di riso, quindi friggete in immersione in olio caldo fino a quando saranno dorate e croccanti. Scolate e fate raffreddare su carta per frittura. Nel frattempo fate scaldare l'olio extravergine e rosolate le spezie: cannella, peperoncino, pepe nero e menta. Aggiungete il pomodoro, aggiustate di sale e fate ritirare a fuoco lento per una decina di minuti. Togliete dal fuoco e unite le melanzane, quindi lasciate raffreddare e poi riponete in frigorifero. Servite la vostra insalata di melanzane fredda o a temperatura ambiente, decorando con foglie di menta fresca. Camera, il Centro Italiano per la Fotografia di Torino, fino al 24 marzo 2019 si può ammirare la mostra Visioni Ibride, una retrospettiva su Sandy Skoglund, artista concettuale americana che vive a New York, dove realizza prima delle installazioni surrealiste che successivamente fotografa. Le installazioni vogliono porre l'attenzione su temi di attualità e spesso vi si scorge la presenza di un'invasione di animali ricostruita apposta e colpisce la totale indifferenza dei protagonisti delle foto. Afferma l'artista: «La presenza animale per me è il legame tra noi stessi e il mondo naturale. Guardiamo un cane e il cane ci guarda. In quel momento sappiamo che non siamo l'unica coscienza al lavoro nell'universo. Il mondo della Terra è un luogo abitato, pieno di molte entità viventi che non vedono e non possono vedere la realtà nello stesso modo in cui lo facciamo noi». Nel 2011 i Primus, gruppo alternative metal californiano, cantano Eye of the Squirrel e il testo ricorda le installazioni proprio di Sandy Skoglund. We'll be right back. Dicevamo in apertura di puntata, e ha a che fare con questa ultima categoria, quella delle mostruosità, il comparto industriale lattiero caseario. Vi parliamo adesso di un documentario, un pugno umano tenuto molto stretto, una mucca al suo interno che viene strizzata, gocce di latte che escono dalle dita. Spremere come un limone una femmina di bovino è il gesto simbolico, ma non troppo, rappresentato nella locandina del film documentario The Milk System. Come si produce il latte? Se vi piacciono le favole, lasciatevi pure incantare dagli spot dei grandi produttori che parlano di pascoli all'aperto, di animali felici di essere spremuti e di prodotti che arrivano sulla nostra tavola come se fossero degli elisir di lunga vita. Se invece siete curiosi, coltivate il senso della realtà, non dovete perdervi il film documentario The Milk System, girato dal regista di Bolzano Andreas Pickler, che racconta la trasformazione di un intero settore agricolo. Milk has become a much desired commodity, and the milk trade is now extremely fierce. The whole agri-food chain is biggest economic sector for the moment. Nel 2018 le produzioni di The Milk System erano state sospese in Italia dopo un esposto che lamentava danni alle imprese lattiero-casearie. Coldiretti e Assolatte, infatti, avevano presentato un esposto ad AGCOM, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e all'AGC, l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Un esposto che, di fronte alla richiesta di danni miliardari evocati nel documento, ha indotto la casa di produzione del documentario, Miramonte Film, e il distributore, Movie Day, a sospendere le proiezioni italiane che erano già state programmate per ragioni di prudenza. Salvo sorprese dell'ultima ora, però, la programmazione negata l'anno scorso adesso riparte dopo ulteriori valutazioni legali. La formula è quella della proposta da movieday.it, una piattaforma di film on demand che permette di organizzare le proiezioni dal basso. Milch ist billiger Rohstoff, der in alles reingemischt wird. Man schafft nur noch von Konzerne. Von Kraftfutterindustrie selber bleiben auf der Strecke. Bauern haben. Pickler, il regista di The Milk System, si dichiara disponibile a partecipare a qualsiasi dibattito pubblico in Italia sui contenuti del film, come già avvenuto in altri paesi europei. Riguardo all'esposto, il regista dice di essere rimasto molto sorpreso perché pensare che non ci possano essere voci critiche nei confronti di come si svolge e funziona l'economia rispecchia una certa povertà di senso democratico, un'idea che non possa esistere una pluralità di opinioni. Dobbiamo un po' tutti chiederci se vogliamo continuare a sostenere questo sistema di produzione di massa. Questo è il tema di cui forse hanno più paura le associazioni di categoria. Che lascia senza fiato nel documentario The Milk System è appunto il fatto che non siamo più di fronte a singoli episodi di sfruttamento eccessivo degli animali o di scarsa cura degli elementi naturali di base per la produzione del latte. Qui siamo in presenza di un meccanismo sistemico dal quale nessun produttore, anche i più piccoli, può venirne fuori se non rischiando di restare senza clienti. Non c'è più assolutamente nulla di naturale nella produzione del latte e con un litro di latte ne arrivano 3 di liquami. Sullo sfondo, come c'era da aspettarsi, c'è un mercato però che solo in Europa vale 100 miliardi di euro l'anno. Lower the curtain down on I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something something shimmering and white. It leads you here, despite your destination, under the Milky Way tonight. Wish I knew what you social network, fenomeni migratori e un po' di politica. Il celebre carnevale di Viareggio non smette di vestirsi di attualità e anche quest'anno tocca il delicato tema dell'inquinamento. È il carro chiamato Alta Marea di Roberto Vannucci a denunciare l'ormai disastrosa presenza della plastica nei nostri mari, diventati la pattumiera dell'umanità. Protagonista del carro è una gigantesca balena morente di oltre 20 metri che si dimena tra cumuli di immondizia, rappresentando un grido di dolore e di allarme tra coriandoli e stelle filanti. Ma i cetacei che muoiono per la plastica, per l'inquinamento chimico e per il traffico navale e il rumore che questo comporta non sono di cartapesta. A loro il 16 febbraio è stato dedicato il World Whale Day, giornata mondiale delle balene, giganteschi e complessi animali fondamentali per gli ecosistemi marini, in grado di pesare come 30 elefanti, che per anni sono stati oggetto di una caccia selvaggia. Negli oceani di tutto il mondo, se non si ridurranno le emissioni, la sovrapesca e gli effetti del riscaldamento globale, metà delle specie rischiano l'estinzione e tra queste ci sono anche le balene. Per fortuna ci sono anche delle politiche mondiali che hanno come obiettivo la loro salvaguardia ed esistono alcuni santuari dove i cetacei possono vivere senza il rischio di venire cacciati. Uno di questi è anche molto vicino a noi e densamente popolato di cetacei, si chiama Pelagos ed è nato nel 1999 con un accordo sottoscritto tra la Francia, l'Italia e il Principato di Monaco. Oggi però purtroppo la concentrazione di microplastiche nel Mediterraneo è circa 4 volte superiore a quella dell'isola di plastica scoperta nell'Oceano Pacifico. A questa minaccia se ne aggiunge un'altra ancora poco conosciuta e studiata, cioè l'inquinamento acustico. La presenza di numerosi porti attorno a questo santuario di cetacei, quello di Genova, quello di Livorno, La Spezia, Marsiglia e altri minori, formano di fatto un'area densamente occupata da varie tipologie di navi con un forte contributo nei mesi estivi per le rotte turistiche. Se sulla Terra il rumore può influenzare il benessere fisico e psichico degli umani, nell'ambiente marino abbiamo una conoscenza limitata, ma sappiamo che questi rumori possono interferire con la vita dei cetacei, fino ad allontanarli dalle aree o fino a modificarne il comportamento. L'elenco degli effetti dannosi è molto lungo, dai danni ai tessuti, all'embolia, danni al sistema uditivo, soppressione del sistema immunitario, spiaggiamenti, interruzione dell'alimentazione e della riproduzione, antagonismo nei confronti di altri animali. Inoltre può esserci un effetto mascheramento dei suoni che sono importanti per comunicare tra simili, come l'avviso della presenza di predatori. Insomma, se amate le balene, usate più canoe, più barche a vela, più pedalò e meno navi commerciali e traghetti. Appuntamento alla prossima puntata, la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che è la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata di Restiamo Animali numero 474 è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.